Bentornati all'appuntamento settimanale con Lars Time. Dalle ore 21 alle 22, Mix e Selecta for You, DJ Electroshock. Ospite this night on streaming, DJ Raff & Joy. This is Air Live and you good listen. My God. We'll be right back. Ascoltatorio streaming, siete sempre in compagnia di Radio Live Session. Questo è il programma Hardstyle Electroshock. Alle ore 22 anche l'ospite su Radio Live Session verrà a trovarci qua, Rough & Joy. ricordiamo a tutti quanti gli ascoltatori, alle ore 22 ci sarà lo speciale set di Rough & Joy. Dedicata la demo a una persona speciale. Salutiamo Vis e Stefano Vintage. Ciao! Salutone a Maugi, ciao! E allora ricordiamo a tutti quanti gli ascoltatori dell'evento alla Gari il 23 maggio, Revolution in Tour. DJ Vulpis, Demo, Killian Faber, Tony Anatone, Bismarck, Zenith, El Paris e Gradisca. Remember Elettronica, discoteca La Carne. Salutiamo anche Tania e Fede da Lodi. Ciao! Shake that ass, shake that fucking door. Zanza will control your mind. allora salutiamo anche un amico di Electroshock, Diego da Roma, ciao. Questo è il programma Style Hard Body, le selezioni musicali Hard Style di Electroshock DJ. Radio Live Session. Ricordiamo a tutti quanti gli ascoltatori l'appuntamento di domani alle ore 21:30 col programma elettronico DJ Vulpis. The pericardium holds the heart in place, a flexible double-layered sac. The other tube connected to the ascending aorta will pump blood that has been oxygenated by the machine back into the body. Turning on the heart-lung machine. Claudia e Enzo, saluti da Radio Live Session. A killer track from a studio coming through with stereo while they catch her ass on the video. Bass feel lights pumping sounds in the crowd while you rock the scene. Yeah, you gotta be proud. Two nations unite cause the feeling's the same. Spiking back on this track cause we're running the game. Dutch Italian beats on this kicking connection. Freaking on this bass cause it's close to perfection. Don't. E allora siamo arrivati all'ultimo disco per Electroshock col programma Style Our Body. Tra qualche istante anche la musica di Rough & Joy, l'ospite su Radio Live Session questa sera. Così giunti alla fine del programma musicale per Electroshock, che vi saluta e vi dà l'appuntamento al prossimo giovedì. Da questo momento un altro cambio, l'ospite speciale su Radio Live Session, Rough & Joy.